Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio e benvenuti, Luca Tremolada al microfono. Oggi sono in compagnia di Cristina Tagliabue, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che ci porta in trasmissione i creativi dell'ambiente. Oggi nella puntata toccheremo tantissimi argomenti. Passeremo dalla bicicletta alla creatività, ai rifiuti, alle macchine fotografiche, al guerriglia gardening. Ma sì, in realtà oggi è una giornata abbastanza importante perché comincia a Torino il Festival alla Cinema Ambiente. Qui a Milano, da dove stiamo trasmettendo, comincia il Bicycle Festival, ovvero il festival dedicato al mondo delle biciclette e a coloro che pedalano. E a Napoli inaugura domani questo la mostra di Ico Gasparri, un fotografo un po' pazzo, un po' folle, che ha dedicato parte della sua vita a fotografare che cosa? I rifiuti, ma perché ha inseguito il rifiuto Ico Gasparri, che mi ha spiegato che è Domenico, però noi diciamo Ico, per cui non è un vezzo ma è un nome. Ico Gasparri, che ha un po' inseguito il rifiuto per capire qual è il destino del rifiuto e soprattutto per raccontare attraverso i rifiuti anche la storia di una città, no? Sì, buongiorno, buongiorno a tutti e... andiamo avanti sentendo la storia di Ico Gasparri. Più di 1200 scatti professionali e 5 anni di esperienza sul tema dei rifiuti. Ico Gasparri, fotografo e artista sociale originario di Cava dei Tirreni, è uno che mette il proprio talento a disposizione di una causa. La sua passione per la fotografia inizia nel 75 e le prime pellicole, quando ancora si usavano le pellicole, le ha sviluppate nel bagno di casa adibito a camera oscura. Aderisce al movimento Città Ambiente sin da subito ed elabora la sua passione per una mostra denuncia sull'abusivismo edilizio nel sud Italia. Sposato con la fotografia, prima di entrare in contatto con il tema del riciclo, Ico tocca anche i temi della violenza sulle donne, dell'immagine delle donne nei manifesti pubblicitari, fotografa i bambini che vivono in guerra, i loro luoghi di gioco impossibili. La mostra che inaugura in questi giorni a Napoli nasce dalla sua insolita passione per i rifiuti differenziati. Parte con l'idea di fare un libro artistico sul cosiddetto garbage, perché si accorge che ogni oggetto buttato via racconta un mondo e che fotografando rifiuti si scoprono molte cose sulle persone. Poi la ricerca prosegue, fino ad arrivare alla comprensione dei meccanismi tecnici del rifiuto. Dove finiscono davvero le cose che buttiamo? Funziona tutto davvero come ci ha mostrato Gomorra? Allora, partiamo da che cosa raccontano i rifiuti. Noi sappiamo che ci sono degli indicatori economici che misurano la quantità di rifiuti prodotti da un paese per valutare il benessere del paese, ma lei che invece è andata a rovistare nella spazzatura con l'occhio della macchina fotografica, cosa ha scoperto? È uno dei luoghi più spettacolari che ci siano in una nazione, è il luogo in cui si accumulano gli oggetti che noi buttiamo. Questo perché parla di noi, ma parla al tempo stesso del nostro concetto del consumo, del consumismo e anche del concetto del nostro futuro, dell'ambiente e di che cosa vogliamo farne di questo pianeta. Quindi la mia ricerca, che appunto si iscrive in una serie di ricerche che io conduco con la macchina fotografica e con gli strumenti di un artista, quindi più che di un cronista, serve e mi aiuta e spero aiuti le persone a leggere questi mondi, cioè dove finisce la nostra roba? Finisce da qualche parte? La risposta è sì, molto spesso finisce in circuiti virtuosi, contrariamente a quella che è l'opinione molto diffusa. Quindi uno dei primi punti per i quali io mi sono impegnato in questo lavoro sul riciclo, che ha avuto già 8 edizioni nella sua mostra, diciamo la parte espositiva fotografica, era proprio quello di mostrare alle persone, ai cittadini, anche attraverso amministrazioni sensibili che hanno sponsorizzato i miei lavori, che quello che loro buttano, se è buttato bene, se è messo bene nei contenitori del rifiuto, va effettivamente, segue una strada giusta e dà vita a un nuovo mondo. Ecco, ma con noi siamo davvero quello che buttiamo. Cosa getta via la gente? La gente getta via di tutto. Io, passando delle intere giornate nelle cosiddette piattaforme di ricondizionamento e di riciclo, vedo delle aree che sono molto specializzate. Arrivano i camion che hanno raccolto le lattine, i camion che hanno raccolto la carta, eccetera. E quindi vedi delle piramidi di carta, delle piramidi di lattine, e lì il mio occhio di fotografo naturalmente va nozze perché vedi colori, forme, dimensioni, eccetera. Poi ci sono dei capannoni un po' irregolari, diciamo così, non irregolari, un po' misti, dove viene accumulato tutto ciò che non ha un destino immediato pronto per essere spedito alla creazione della materia seconda, e che sono quei luoghi dove si accatasta tutto, materassi, televisioni. Ecco, ma tu guardi questi mondi come a un'opera d'arte o ha imparato qualche cosa sugli altri? Perché poi quando uno fotografo fondamentalmente lo fa anche per raccontare qualche cosa, al di là dell'idea, cioè l'idea di seguire il rifiuto è affascinante, ok, ma che cosa hai capito alla al termine di questa avventura? Ho capito che c'è tantissima buona volontà, le persone hanno una convinzione del futuro del pianeta e una convinzione nel credo ecologico ed ecologista sicuramente superiore a quello che noi pensiamo. Ecco, perché ti interrompo, perché ricordiamo, tu questa operazione qui l'hai fatta in Campania. Io l'ho fatta al 95% in Campania. Perché in Campania? Ma perché ero andato, questo è stato abbastanza casuale, questo è abbastanza curioso come storia, in Campania perché avevo deciso di fotografare un impianto di ricondizionamento di un che conoscevo, che sapevo che esistesse lì in Campania, essendo io campano, anche se vivo a Milano, mi ero recato a visitarlo questo posto, ed era la prima volta che io entravo in una piattaforma di ricondizionamento e di riciclo, e sono rimasto stregato. Sono il primo giorno che sono entrato, sono stato 5-6 ore a scattare pellicole e su pellicole, perché vedevo delle cose che non avrei mai immaginato, ma innanzitutto un circuito che funzionava. Ma quindi insomma il contrario in realtà di quanto siamo soliti pensare, cioè la raccolta differenziata è veramente una cosa complessa da parte delle persone che lo fanno, nel senso che è onerosa in termini di tempo, cioè lo dico io che insomma ci impiego un sacco di tempo a dividere bottiglie, scatole, scatolette, umido, non umido, eccetera. Cioè allora questa cosa funziona, in effetti le cose che io differenzio da casa vengono distinte, non solo, anche in campagna e Napoli, che è il luogo veramente insomma che abbiamo visto più allucinante da questo punto di vista, là accade, insomma là funziona. Dire che funzioni dappertutto ovviamente non è una mia, non è le mie possibilità, non è vero che funziona dappertutto, funziona senz'altro mediamente come funziona altrove. Chiaramente le cronache sono state assai spettacolari da questo punto di vista, e a Napoli all'improvviso c'è stata questa sarabanda di spazzatura per strada, e che poi a un certo punto non c'è stata più, e io ho visto tutto ciò che ha funzionato nei territori campani. Infatti quando io porto in giro la mia mostra e racconto che quelle sono piattaforme di riciclo della Campania, le persone dicono: ma come, a Napoli c'è la spazzatura per strada e nessuno ricicla niente? E dico: alt, non è vero niente, venite con me. E infatti spesso capita che io porti delle scolaresche nelle piattaforme per vedere come un artista fa il suo lavoro, cioè come si fa a raccontare la bellezza di un gesto alle persone attraverso un'opera d'arte. 800 24 00 24, se volete interrogare il nostro artista che è qui in studio, quindi non lo facciamo scappare. 349 238 6666, se insomma siete affascinati dal percorso del rifiuto, insomma la bellezza del rifiuto, chi l'avrebbe mai detto, il rifiuto in quanto opera d'arte, no? No, infatti è strano, devo dire, anche perché è facile anche affascinarsi poi a questi oggetti, poi però diciamo che è anche difficile utilizzarli per raccontare qualche cosa. Io sono un po' perplesso sinceramente, nel senso che ci credo fino a un certo punto che dalla spazzatura si riesca poi a capire qualche cosa di più, soprattutto adesso che come lei sostiene funziona la raccolta differenziata, per cui funzionando è già tutto diviso, no? Beh no, non è così semplice. È bene non abbassare la guardia, in molte zone d'Italia siamo ancora a percentuali estremamente, estremamente basse, e comunque va tutti i giorni potenziata la comunicazione. Ecco, diciamo che il mio compito soprattutto è questo, quello di aiutare le persone a capire, ed è anche questo il mio successo principale, quello di vedere le persone contente, che escono dalla mia mostra contente. Ecco, Ico, lei ha fotografato con la pellicola oppure ha utilizzato tecnologie digitali? Sempre in pellicola, io lavoro ancora con la mia grande macchina fotografica a pellicola, in formato professionale, anche perché in questo caso è molto importante poter leggere i dettagli della spazzatura, quindi le lattine, farle vedere bene. Io faccio delle stampe molto grandi dove appunto gli oggetti superano addirittura la riproduzione 1:1, quindi tu vedi delle lattine, a volte sono grandi un metro, dei frammenti di lattine, quindi l'utilizzo delle leve dell'arte contemporanea in fotografia servono a stupire. Quindi sostanzialmente si buttano, cioè crea rifiuti lei. Cioè lei è un creatore di rifiuti. Io sono perché... un creatore di immagini. No, però la è una stupidaggine, però è vera, cioè la pellicola si butta, cioè lei dopo che ha l'ha sviluppato tutto quanto in un no, certo senso. Le scatole, c'è un qualche cosa di creazione, mentre con la mia macchinetta digitale che funziona una meraviglia cioè spreco solo energia elettrica. Sì, però io riesco ad avere una capacità di lettura del dettaglio fotografico che per un artista è molto importante. Questo non lo infatti metto in dubbio. È molto divertente quando io sono in queste piattaforme poter ho in mano le scatolette effettivamente della pellicola e mi pongo ogni volta il problema di dove gettarle, benché io sia in una montagna di rifiuti, e cerco di essere differenziatore anche con le mie scatolette di pellicola. Ma no, infatti Luca, io credo che Luca scherzasse, però che esistono so che esistono in realtà delle magiche macchine fotografiche digitali che certo costano tantissimo e che permettono di avere una precisione e un dettaglio e non inquinano pesano molto però sono molto pesanti, ci si fa i muscoli, no? Si sollevano però... eccetera eccetera, e hanno una precisione in dettaglio uguale a quella della pellicola. Mi spiace dirlo. No, ma lo ammetto. Da un creativo dell'ambiente a un altro creativo dell'ambiente. Alessandro Cippa, buongiorno. Buongiorno. Chi è Alessandro Cippa, Cristina? Alessandro Cippa è un regista che partecipa ovviamente all'evento di cui parliamo oggi, perché è il Festival Cinema Ambiente di Torino, quindi è un regista che ha lavorato invece con il digitale, al contrario che con Ivo Gasparri, che invece ha lavorato con la sana pellicola, l'analogico, e ha fatto un documentario su un mondo molto molto piccolo, molto specifico, molto particolare, che sono le api. Ma prima sentiamo chi è Alessandro Cippa. Nato a Napoli nel 68, Alessandro Cippa ha iniziato la sua carriera come maestranza del cinema, aiuto regista, assistente alla regia, fino a che non si è specializzato in scrittura e in regia. Da buon napoletano lavora come dialoghista per Un posto al sole e La squadra, e dopo la consueta gavetta passa un lungo periodo a Torino, dove pensa al suo primo film. In attesa del grande momento, Cippa ha girato il cortometraggio Nanni e le api, che vedremo in questi giorni al Festival Cinema Ambiente. Lo ha fatto da solo, con una piccola macchina fotografica digitale. Ha registrato un audio fuoricampo e lo ha montato col suo Mac. È grazie a questi limiti tecnici che lo short è diventato una piccola testimonianza fuori dal coro. Buongiorno Cippa, ma perché le api? Cioè, siamo sicuri che raccontare l'ambiente è raccontare la storia di un apicoltore? Ma io in realtà sono partito dal desiderio di raccontare questa persona che avevo conosciuto da poco, che fa l'apicoltore. Nanni. Nanni Maier è un apicoltore napoletano. Quindi in realtà non volevo fare né un documentario di denuncia sui problemi delle api, dell'apicoltura, e né un documentario scientifico, ma conoscendo Nanni sono rimasto emozionato ascoltarlo, ho trovato interessanti i suoi racconti e mi è venuta voglia di condividere con altri. Ecco, noi abbiamo estratto un breve estratto di Nanni, lo sentiamo subito. Il mestiere è bruttissimo finché non individui la regina dove sta, perché l'individuazione con sicurezza della posizione della regina ci consente o meno di fare una serie di operazioni. Quindi finché non l'hai trovata, stai lì a subire eventualmente punture, certamente sudore, la faticosità di alzare piano piano questi oggettini che pesano comunque qualche chilo, stai lì, subisci, aspetti finché non compare. Poi finalmente sai dove è la regina, allora tutto è chiaro, ritorna il sorriso. Quindi la faticosità, ma cos'è questa? Cioè, era Nanni che raccontava la scoperta dell'ape regina? Nanni che raccontava la ricerca dell'ape regina, che un singolo elemento a cui vanno, dietro cui vanno appresso poi tutte le altre, le api operaie. E quando si sposta l'ape regina si sposta anche l'intero sciame. In qualche modo Nanni racconta in cosa consiste le difficoltà del suo lavoro, che è un lavoro solitario, spesso anche faticoso e frustrante, anche perché recuperare poi questi sciami è una cosa, insomma, abbastanza difficoltosa a volte. Questi sciami, è capitato anche che hanno invaso le città, oppure si spostano. Ecco, Ico campi. Gaspari voleva dirci qualche cosa. Tra l'altro ci sono due sms per lei, per cui adesso dica che poi... Sì, ciao innanzitutto al mio collega filmmaker, e mi piaceva molto questo racconto di Nanni perché mi ricorda molto la mia esperienza con la spazzatura, sembrerà strano. Lui identifica un'ape regina in una quantità enorme di animali che sono lì, e io sono fermo esattamente come Nanni sopra dei cumuli di spazzatura a aspettare quale sia l'unica angolo visivo che mi permette di scattare quella fotografia su milioni e milioni e milioni di bottiglie. Quindi mi veniva, scusa se ti ho interrotto, mi veniva questo particolare riferimento. Quindi affinità elettive. Ecco perché però i nostri ascoltatori si domandano, anzi giustamente dicono sì, però la percentuale di riciclo in campagna è ridicola. Il fotografo ha lavorato sull'unica piattaforma esistente, vero? Assolutamente no, non so da dove traggano questi dati. Io ho lavorato in campagna almeno in 8-9 piattaforme differenti. Non mi sembrava che fosse una situazione diversa. L'unica cosa che non sono riuscito a fotografare in campagna è il vetro, infatti l'ho fotografato a Vicenza. Per il resto avevo solo in base la scelta, c'era una piattaforma di ricondizionamento, non dico dovunque, ma ce n'erano diverse. Ma il Terapak? Mi chiedono se è riciclabile o meno. Il Tetra Pak, adesso, visto che c'è una campagna a Milano che è riciclabile, lì è una questione tecnica un po' difficile perché è un accoppiato di alluminio. E ma l'ha visto, l'ha fotografato? No, perché in campagna, come del resto quasi da nessun'altra parte, si ricicla per il momento. Viene utilizzato, viene rimesso insieme alla carta. Cose tossiche? Cose tossiche no, io non ho mai... Mi sono ma mai che cos'è il Tetra Pak? Io non lo so, veramente. È quello dei succhi di frutta, alcuni cartoni del latte. Quindi le piattaforme di riciclo ci sono un po' dappertutto, su tutto il territorio nazionale. Poi che la percentuale effettivamente non sia sempre altissima dappertutto, ma non è una questione di campane di nord o di sud. Ecco, con la sua veramente una missione, esattamente un po' come quella dell'apicultore alla fine. Io lo vedo come un missionario, un apicultore, perché tutto sommato con tutti i mestieri che ci sono oggi, tutte le cose, no, nuove che vogliono fare i giovani, alla fine fare l'apicultore, cioè davvero, no, essere circondato da questi insetti così, e se tutto ti pungono, se non ti pungono, però... Ma è bello fare l'apicultore? Ma... Sentendo Nanni, per lui è bellissimo. Io credo che non lo farei mai questo mestiere. Ma allora perché hai deciso di fare un film? Ma perché lo trovo coraggioso e mi incuriosiva. Volevo capire come funzionava questo mestiere, in cosa consisteva. E poi immediatamente l'ho trovato molto coraggioso. Cioè Nanni per me è un po'... Io un po' di tempo fa avevo fatto un documentario su quattro partigiani napoletani che avevano fatto le quattro giornate. E, ripensando a questo lavoro, mi è venuto in mente un po' che come se Nanni fosse un partigiano, cioè uno che combatte anche per tutti noi. E non è male, cioè un militante. Sì, perché dalle api, poi dall'apicoltura. Ma quindi chi sarebbero le api, andando avanti con la metafora? Cioè, se Nanni è il combattente che resiste, l'ape chi è? E soprattutto chi è l'ape regina? Non so, cioè l'ape è qualcosa da difendere, è un... insomma è qualcosa a cui dipende, e non solo per il miele, sì, non solo per il miele, no, tutto il nostro ecosistema dipende anche dalla salute delle api, che in questi ultimi anni sono andate incontro a un problema molto grave, che è questa cosiddetta scomparsa delle api, probabilmente dovuta alla diffusione di pesticidi neurotossici. Sì, Cristina. Le popolazioni di api si sono divise. Al Festival Cinema Ambiente volevo, scusami se ti interrompo, al Festival Cinema Ambiente di Torino, che finisce poi il 13 ottobre, in realtà ci saranno tanti tanti film, cioè quasi un centinaio tra film, dibattiti, mostre e incontri sul tema dell'ambiente. Adesso abbiamo sentito gentilmente Alessandro, in realtà per esempio ci sarà un altro film un po' militante dal punto di vista dell'ambiente, fatto da un regista italiano, si chiama Maurizio Pallante, sulla felicità sostenibile, cioè sul fatto di non consumare così tanto, ecco, come siamo soliti fare oggi. Nova Lab 24. E eccoci bentornati, siamo passati dal riciclo, quindi da un artista che è qui con noi e che fotografa i rifiuti e che racconta storie attraverso queste fotografie, al racconto attraverso il film festival di Scippa, che lui riprende invece gli apicoltori, alla felicità decrescente, vero Cristina? Sì, sono tutti i nomi un po' strani, felicità sostenibile, movimento per la decrescita felice. In realtà è una filosofia molto contemporanea e concreta che ovviamente propugna il movimento per la decrescita felice. Cosa vuol dire? Semplicemente invertire la rotta, consumare di meno, attuare delle politiche energetiche consapevoli e c'entrava la felicità decrescente, perché cioè, consuma meno, cioè, è meno felice? Ma non lo so, vediamo. Mentre chi sicuramente è molto felice è Andrea, che è in collegamento con noi. Buongiorno. Ciao. Ciao. Allora, tu fai parte di un movimento, Guerriglia Gardening, che ha una missione ben precisa, quello di portare, diciamo, il verde in città. Sì, guarda, Guerriglia Gardening è un movimento a livello mondiale che si occupa di fare del giardinaggio nelle aiuole pubbliche, per cui dove in particolare c'è un po' di degrado, ci sono dei luoghi dimenticati all'interno della città. Ecco, è tutto legale quello che fate o no? No, nel senso, in realtà non c'è una legislazione specifica. Noi nel dubbio lo facciamo di notte, perché il suolo pubblico... Ma è mai venuto qualcuno a dirvi, anzitutto cosa fate? Spiega bene. Allora, noi scegliamo una zona, possibilmente vicino a casa, perché poi c'è anche il discorso manutenzione, e la risistemiamo, prendiamo le piante, facciamo un piccolo progetto, un piccolo budget tra amici, e poi realizziamo un giardino. Ci troviamo verso le 9:30-10, diciamo appena cala il buio, e poi velocemente nell'ombra realizziamo questo giardino. Quindi, scusa, già il fatto che dite vicino a casa, se date già un'indicazione che vi possono beccare, cioè che se devo capire chi ha piantato la rosa o il fiorellino, so che è l'intorno. Sì, questo è vero, però in realtà a Milano adesso il gruppo è anche abbastanza grande, per cui ci sono aiuole sparse qua e là. E quanti siete? Allora, il gruppo di Milano è di una trentina di persone, 30-35, poi ci sono tanti altri gruppi in Italia, direi che in totale i guerriglieri del verde in Italia arrivano a 200-300 persone. Ecco, siamo a Milano, ma a Milano è mai venuto qualcuno a dirvi qualcosa? Guarda, si è fermata una volta una pattuglia di carabinieri a cui abbiamo spiegato quello che stavamo facendo, e loro diciamo, ci hanno lasciato andare senza indagare, insomma, gli è sembrata una cosa costruttiva, per cui non ci hanno ripreso. Ma a me sembra una cosa bellissima in realtà, no? Questa di portare il verde nelle città, soprattutto a Milano, no? La città grigia per antonomasia. Perché? Beh, insomma, questi luoghi del delitto rischiano in realtà di portare un po' di felicità all'interno. C'è Ico che vuole intervenire. Sì, appena sentito città grigia... Voglio scrivere perché uno dei miei lavori si chiama Un fiore di città. Una delle mie ricerche di questo genere qua, che è molto, molto vicina a quella degli amici della Guerriglia Gardening, e io appunto fotografo le aiuole abbandonate in cui questi fiori loro malgrado riescono a spuntare, e quindi complimenti, mi iscrivo subito al gruppo. Beh, esatto, perché i fiori a Milano in realtà crescono proprio loro malgrado, nel senso che è così difficile mantenere un fiore. Adesso sto scherzando, ovviamente, io abito a Milano. Ma perché non la verdura? Ma voi fate verdura o solo fiori? Allora, perché diciamo, cerchiamo di fare più gli ornamentali perché si riesce a coinvolgere anche il quartiere. Spesso c'è chi deve curare l'aiuola in un secondo tempo, che può essere un negoziante, un anziano che passa, per cui si cerca di dare qualcosa con un impatto estetico che possa far affezionare il quartiere all'aiuola e quindi far continuare poi la cura nel tempo. Quindi zucchine, così niente? No, in realtà a Milano c'è una realtà parallela che è una forma di guerriglia gardening, che però non è fatta con uno spirito, diciamo, di denuncia, ma è semplicemente fatta dai dei cinesi che si mettono nelle aiuole ed effettivamente piantano zucchine, pomodori, rape nelle aiuole pubbliche. Non lo sapevo. Ho sentito anche parlare di orti su balconi, di una sorta di, insomma, no, persone, movimento che si organizzano e si fanno gli orti nella casa, sul balcone, sul terrazzo. Chi ha più spazio mette il pomodoro, che l'altro mette il cetriolo. Da una parte è una realtà un pochettino più radical chic, cioè bisogna già avere un appartamento con un terrazzo. Sì, infatti, sto pensando anch'io. Tra l'altro a New York ho sentito che ci sono sul tetto fanno gli orti, però anche a me sembra un'opzione radical chic, anche perché avere la casa all'ultimo piano, esatto. Nel senso, vabbè, mi sto zitta allora. No, ecco, però ecco, la cosa interessante è che insomma siete un po' in tutta Italia, ecco. Sì, sicuramente ci sono, in realtà noi abbiamo aperto il sito web 4-5 anni fa e eravamo in pochissimi. Ormai ci sono gruppi strutturatissimi sia a Milano che a Roma, a Torino c'è un gruppo molto grande. Diciamo in tutte le grandi città dove si vive di più il disagio, lo stress, il grigio, ovviamente questo tipo di movimento ha una presa molto forte. Ecco, ma come si fa a farvi venire nel quartiere in cui si abita e invitarvi a fare un'azione di guerriglia gardening? Allora, innanzitutto guerriglia gardening lo può fare chiunque, non c'è bisogno né del nostro permesso né di un grande know-how giardinieristico. Per cui la cosa migliore, se tu vuoi fare guerriglia gardening, è contattare un po' di amici, fare un piccolo budget, scegliere un'aiuola e in grande indipendenza fare guerriglia gardening. Poi noi possiamo dare visibilità perché abbiamo il sito web che è molto frequentato, per cui tutti i piccoli e grandi lavori dei gruppi italiani li mettiamo anche per attirare e fare nuovi proseliti, tra virgolette. Però è un'attività molto individuale, noi ci teniamo a rimarcare il fatto che deve partire dal singolo, ecco, questo tipo di attività. Perfetto, grazie Andrea. Grazie a voi. Ecco, noi abbiamo in collegamento anche Giovanni Pesce. Passiamo serenamente dai giardini alle biciclette, ma prima ho una domanda al nostro artista sociale, perché ci dicono che il Tetra Pak giustamente è riciclabile, che è quello che pensavo, sì, certo, anch'io, sì, nel senso, sì. Per cui non lo sapevo, ma non l'ho detto. Certo, e poi ci chiedevano anche dove sono le 8 piattaforme. Ma sono sicuramente anche più di 8, e per piattaforme bisogna immaginare non degli impianti colossali, sono semplicemente dei capannoni dove arrivano dei camion, scaricano delle quantità di lattine, di carta, di vetro, il ciclo è continuo, per cui ci sono anche giacenze abbastanza limitate, sono a Nola, Caivano, Salerno, Pellezzano, ci sono Caserta. Ma insomma, quindi esistono, ecco. Certo che esistono. Ecco, entriamo con tutti e due i piedi in bicicletta. Beh, veramente, insomma, non si poteva non citare oggi, nella giornata di oggi, i creativi che si uniscono sotto l'egida delle due ruote e però anche i pedali, diciamo. Ecco, che dov'è che c'è di creativo nella bicicletta? Moltissimo, lo so, l'ho detto solo per stimolare Giovanni Pesce. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che cos'è che fanno questi creativi della bicicletta? Quello che sta succedendo è che la bicicletta sta diventando un po' il simbolo delle popolazioni creative di città come New York, San Francisco, ma anche Tokyo e anche un po' a Milano sta iniziando questa cosa, per cui sono falciati sulla strada dagli automobilisti riescono a restare creativi. Sì, è un piccolo gesto di ribellione estetica e la bici è una cosa che ti mette in mostra, ti fa essere ad aperto contatto, stretto contatto con la città e non sei chiuso in un abitacolo costruito in serie, ma sei su un mezzo spesso personalizzato e ti fai vedere e quindi per tutta una serie di motivi, tra cui questi, la bici sta facendo molto presa, breccia tra le popolazioni creative, appunto, che sono poi quelle che fomentano il nostro festival, che è il Bersico Film Festival, che si apre stasera. Tra l'altro si apre stasera con la mostra, dove proprio molti creativi artisti di New York e San Francisco hanno contribuito con le loro opere. Insieme a queste opere poi noi abbiamo portato anche delle opere di italiani. Quindi è un festival fatto proprio di contributi spontanei e di creativi di tutto il mondo che noi mettiamo in rete. Ecco, Cristina ha raccolto molto materiale su questo tema. Ma sì, perché come Guerrilla Gardening anche il Bicycle Film Festival è un movimento internazionale nato 10 anni fa per iniziativa di Brad Barbour, cicloattivista e collezionista di video e film a tema bicicletta. Quindi oggi è una realtà, se tu vai sul sito internet in realtà ti ritrovi a San Francisco, New York. Questo festival ormai popola 39 città in tutto il mondo e coinvolge 100.000 persone, centinaia di film, opere d'arte in catalogo, insomma è veramente una cosa grossa. Ecco, un esempio, ce l'hai un esempio interessante, Cristina, da raccontare, qualcosa, perché abbiamo giusto un minuto e mezzo, se qualcosa che ti ha colpito di questi creativi delle due ruote. Ma abbiamo, come dire, visto su YouTube in realtà un paio di spezzoni di film molto simpatici. Uno si intitola Made in Queens, forse abbiamo... Non facciamo tempo a vederlo, noi metteremo l'indirizzo però di YouTube nel nostro Twitter, twitter.com/novalab24. Ecco, in questo film in pratica ci sono vari ragazzi che abitano nel Queens a New York che hanno caricato sulla propria bicicletta le casse, no? Gli amplificatori, e vanno in giro così, insomma, a suonare la città, dar fastidio alla città. Esatto. Oppure c'è un'altra storia di tre ciclisti che insomma hanno fatto in 4 mesi, sono dato le dimissioni, non so dal lavoro, sì, cosa dalla, hanno fatto. Dalla regia, sono che sono dei fan invece delle automobili, mi fanno segnali di li mettiamo sotto. Vabbè, insomma, 12.000 chilometri per tutta l'Africa si sono fatti questi 12.000 personaggi. Chilometri. 12 in bicicletta. Però non sono creativi, no, sono dei atleti. Pazzi, sono dei pazzi, sono dei pazzi. Beh, però bello, accidenti. Sono delle esperienze di vita uniche. Poi a guardarle davvero, cioè, ti viene la gioia nel cuore, dici, ma insomma, guarda che bello il contatto con la natura. Poi sono tutti magri, ovviamente, no? Perché certo, stanno bene, alla fine il fisico ci guadagna, no? Nova Lab 24. Nova Lab 24. Trattato di pace tra Microsoft e Unione Europea? Redmond sembra aver convinto l'antitrust europeo a porre fine a un contenzioso quasi decennale, probabilmente già entro quest'anno. A persuadere i funzionari dell'Unione Europea sarebbe stato soprattutto il Ballot Screen, schermata che permetterebbe agli utenti di scegliere 12 browser diversi da Internet Explorer. Se riuscite a descrivere a parole un oggetto o un luogo, provate a disegnarlo. Vi aiuterà PhotoSketch. Il programma, sviluppato da 5 studenti cinesi, confronta gli schizzi anche molto sommari di ciò che avete visto con un vasto archivio di immagini, pescando quella che si avvicina di più. Il software ha riscosso un clamoroso successo, tanto da mandare in tilt il suo sito di prova. Terra può tirare un sospiro di sollievo. Impiegando dati aggiornati, gli scienziati del programma Near Earth Objects della NASA hanno ricalcolato la traiettoria dell'asteroide Apophis, abbassando da 1 su 45.000 a 4 su 1 milione le possibilità di un impatto con il nostro pianeta nel 2036. Intanto, venerdì sarà la NASA a provocare una collisione spaziale, facendo schiantare una sonda sulla Luna. L'impatto permetterà di capire se in quell'area del satellite c'è acqua. Chi ha voglia di fare le scale? Meglio le scale mobili. Le scale installate alla stazione Odenplan della metro di Stoccolma, però, sono irresistibili anche per i più pigri. I loro scalini, infatti, sono tasti di un pianoforte che suonano davvero quando qualcuno sale o scende. L'idea ha funzionato. Il 66% dei passanti le ha preferite alle scale mobili. Batteri, così vicini eppure così sconosciuti. Per conoscerli sarà disponibile da oggi la lente di Galileo, libro di Jessica Snyder Sachs, dedicato al mondo dei microorganismi. L'autrice racconta con un rapido scorcio storico e poi soffermandosi più a lungo sulle vicende recenti la nostra convivenza con i batteri. Volete immedesimarvi nel mondo spaziale di George Lucas? Da domani nei negozi si troverà Star Wars The Clone Wars, gli eroi della Repubblica. Per la prima volta in assoluto, i giocatori potranno combattere nei panni dei propri Jedi e cloni preferiti delle popolari serie d'animazione televisive. Dai visi familiari come Anakin Skywalker a nuovi eroi come il capitano dei cloni Rex. Bentornati, pochissimo tempo, però Cristina ci dà un consiglio. Sì, in realtà c'è una grande iconografia legata al mondo della bici. Mi viene in mente per esempio E.T. Però è appena uscito un libro che tratta del tema della bicicletta. Appunto, si intitola Ho pedalato fino alle stelle. L'autore è un giornalista, Paolo Aresi, edito da Mursia. Ebbene, questa è la storia di una donna, Marcella, che quasi cinquantenne, per sfuggire alla noia di una vacanza familiare, decide di regalarsi una bici da corsa. E di lì la fatica, il sudore, frusce delle ruote, non lo so, in realtà non lo so, so soltanto che la suocera di lei si lamenta molto, ma lei è felice perché finalmente ha trovato una dimensione completamente diversa. E se è felice lei, siamo felici anche noi. Io ringrazio Domenico Gasparri, detto Ico Gasparri. Grazie, grazie a voi, grazie, grazie. E ringrazio anche la regia, ringrazio tutti, ricordo semplicemente che Milano non è grigia, lo dico con pieni polmoni, anche se la giornata non è delle migliori, e che domani soprattutto parleremo di casa ecologica, per cui attenzione, andiamo a capire che cosa c'è di buono, che cosa c'è di male, riscaldamento, insomma, capiremo molte cose. A domani! Nuova Seat Exeo ST, scoprila nelle concessionarie Seat. Vi ha presentato Nova Lab 24.